Storiacce di Raffaella Calandra. Tosa mi ledi, tosa mi ledi, minchia cantante sticchiosa. Zuccaro mio, ma che minchia ci fai qua? Un aveva ammazzare quella bestia che andava a dare i piccioli. Totò, non ci posso fare niente, a me Spagna mi fa sangue. Luchino, fai la persona seria, prima rispetti gli impegni dei lavori, poi te ne vai in Spagna e uno te ne vuoi e te ne vai. Canticchia e ritaglia con lo sguardo sognante e il sorriso sulle labbra le foto di Ivana Spagna da una rivista patinata. Si offre così al nostro sguardo, raffigurato come se fosse un adolescente innamorato, un po' imbambolato e quasi sopraffatto, uno dei più spietati killer di mafia, sanguinario come pochi altri, Leo Luca Bagarella. E a fargli la ramanzina, come un qualsiasi bonario genitore alle prese col figlio in piena crisi ormonale, è nient'altro che Totò Riina, il capo dei capi di Cosa Nostra, l'uomo che dichiarò guerra allo Stato, perché della mafia e dei suoi boss si può anche ridere. E mai come in questo caso si può dire e auspicare che una risata li seppellirà, perché invece loro di ridere non sono proprio capaci. Ed è invece proprio una risata quella che noi ora vogliamo farci in questa puntata di Storiacce. Ti dà soddisfazione perché, come dire, un mafioso esprime, usa la pistola e io non credo nel uccidere come atto di uccidere persone, persino se ha a che fare con un mafioso, l'ironia mi sembra l'arma più giusta da utilizzare. Poi ho sempre pensato che fino a quando c'è la voglia e la forza di ridere o sorridere, vuol dire che c'è sempre una speranza. Il giorno in cui tu non hai più la forza di ridere, vuol dire che è proprio finita. E la soddisfazione di Piff, nome d'arte di Pierfrancesco Di Liberto, è quella di aver colpito irriducibili capimafia e spietati picciotti in ciò che per anni è stata la base del loro potere, quell'aura di potenza e timore che li circondava, creando seguito e consenso a suon di minacce, violenze e con i più terribili delitti. E allora, invece dell'epopea del male e del racconto del malvagio che col fragore del tritolo e la complicità di pezzi dello Stato riuscì a far traballare la Repubblica, stavolta sullo schermo, oltre ai delitti, vediamo anche le debolezze e le goffaggini di chi invece di sé vorrebbe solo un'immagine da colossal. Questo è stato il successo del film La mafia uccide solo d'estate. Questo ha portato in prima serata sulle reti pubbliche la fiction. E di questo sfottò, come si direbbe a Napoli, chissà cosa pensano gli stessi mafiosi, che negli anni invece abbiamo visto esaltarsi davanti alle scene del Padrino o seguire con attenzione tutte le pubblicazioni editoriali o cinematografiche sul loro mondo, e si chiede cosa pensano di lui e dei suoi film lo stesso Piff, o meglio, a quanto ci racconta, ogni tanto lo chiede agli stessi magistrati. Beh, sono curioso, nel senso che io personalmente non l'ho avuto. Ogni tanto chiedo a qualche magistrato che ha a che fare con qualche pentito, però non lo so, sono curioso di sapere come, che reazione hanno avuto i mafiosi. E io poi di solito parlo di una mafia che se è viva è in carcere tendenzialmente, a parte Matteo Messina Denaro. È vero però che appunto il vero equivoco quando si discute sulle fiction o sulle serie televisive che parlano di mafia, di Camorra, il vero equivoco è stato il Padrino, cioè che rimane un capolavoro assoluto del cinema mondiale, però è quello che ha creato il grande equivoco e che ha dato un tocco di nobiltà alla mafia, solo che forse quella era una mafia americana, la mafia siciliana era anche triste nella scenografia, perché poi alla fine Bernardo Provenzano è stato preso in una stalla, non in un villone sul lago. Parli di vendetta, ma credi che la vendetta ti restituirà tuo figlio o mio figlio a me? Io non voglio vendicare mio figlio ucciso, ed è per egoismo che rinuncio.

la nostra riserva indiana ci è stata finalmente aggiudicata. E questo, tutto quello che Peppino Impastato ha raccontato sulle frequenze di Radio Out, come avete sentito dalla sua voce in uno dei più celebri interventi, dava fastidio più di qualsiasi altra cosa a Tano Badalamenti, Tano Seduto, e a tutti gli altri Mamma Santissima che si riunivano a 100 passi dalla redazione di Impastato. Li dissacrava, li smontava, denunciava i loro misfatti in un surreale racconto che ai potenti boss diede così tanto fastidio da determinare la condanna a morte del giornalista di Cinisi. Ma negli anni la risata di Impastato ha contribuito a seppellire loro e le loro trame, e anche se il peso della satira in questi anni, fine anni 70, aveva ben altro valore davanti a clan potentissimi, a boss emergenti, a tutte le latitudini i padrini di ogni clan continuano anche oggi a non sopportare di essere sbeffeggiati. E allora da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Vuoi andare all'estero per lavorare, studiare o semplicemente per cercare opportunità che in Italia non trovi? Le dritte giuste, i paesi giusti, i lavori giusti ve li forniamo noi ogni sabato su Radio 24. Le storie di chi all'estero ce l'ha fatta e ci indica una strada da seguire. Sono Sergio Nava, vi aspetto tutti i sabati alle 13:30 con Giovani Talenti. Storiacce. Ma che cazzo, mi faccio più regine di Lancillotto oggi. Che succede? Facciamo 2 passi. È così grave? Tuo padre era un uomo giusto, Tony. Che c'entra questo adesso? Junior non lo è. Ma non girarci intorno, arriva al punto, cazzo. Cosa ha fatto? Vuole il pizzo, Tony. Te l'ha chiesto? Beh. Quando è successo? Oggi. Ma lo sai che hai operato per anni senza tangenti? Che mio padre ti voleva bene e ti rispettava? Che il 10% di quello che incassi con i prestiti a strozzo va nelle sue tasche? Mio zio è boss da 10 minuti e io ho già l'ansia. Che gli hai detto? La verità. La richiesta è abbastanza ragionevole, ma la cifra... Aspetta, come sarebbe a dire che la richiesta è ragionevole? Il boss è lui, Tony. Lui sceglie la musica e noi balliamo. Si è fatto sempre così. Può rispettare quello che è stato deciso in passato o cambiare le regole. Ascolta, Tony, te lo dico perché con tutte le puttanate che succedono, io non so se posso restare qui. No, e dove vorresti andare? Dove voglio? Posso vivere coi diritti d'autore, no? Ho vinto 6 dischi d'oro, cosa vuoi? No, una coppia di neri ha vinto 6 dischi d'oro. L'etichetta era tua e tu ti sei finto coautore. Fai il bravo, Herman. Su, guarda che ti conosco. Se lasci l'attività ti suicidi. Non ci sarebbe proprio nulla da ridere nella richiesta di Pizzo. L'attività con cui la mafia ha tutte le latitudini, in Italia come negli States, ha storicamente messo insieme ricchezze e consenso. E anzi forse è la più odiosa manifestazione dei boss, che pretendono una tassa da chiunque guadagni all'interno dei loro territori e in nome del Pizzo hanno ucciso commercianti a Palermo come Libero Grassi o hanno anche sparato a Napoli contro gli ambulanti, ferendo proprio ora una bimba di 10 anni. Eppure anche di questo alla fine si riesce a ridere. Nelle immagini grottesche e pungenti della serie dei Sopranos, un clamoroso successo da milioni di spettatori, altra faccia del Padrino, ma che come il Colossal di Francis Ford Coppola ha fatto scoprire i clan oltreoceano. Una satira che piace ad uno dei più profondi studiosi di mafia come lo storico Salvatore Lupo. Dico, mi pare abbastanza ininfluente perché questa ironia non è particolarmente graffiante. Noi ci ritroviamo davanti storie che conosciamo veramente, alcune delle quali per averle vissute tutti, almeno quelle della mia generazione. Però io non lo trovo particolarmente ironico o graffiante, se devo dire la verità. Allora è molto più interessante l'ironia appunto dei Sopranos, che in cui la vita quotidiana della mafia viene messa all'interno delle sue proprie contraddizioni, che quindi possono essere anche ridicole in certi casi, in certi altri sono drammatici. Viene anche più sbeffeggiata, diciamo. Sì, sbeffeggiata, raffigurata, messa in un contesto, nel contesto della vita reale delle persone. Può essere raccontata in tanti modi la mafia, non devo essere io a giudicare quelli che sono giusti o quelli che sono sbagliati. E forse vale sempre quello che diceva Borsellino, che parlarne in ogni mezzo purché se ne parli. No, questo mi dispiace, non sono d'accordo. Ognuno ne parli come crede, però ci sono anche, se si esce dall'arte e si va invece sulle rappresentazioni che vogliono essere realistiche, c'è anche un modo discutibile di parlare, cioè tutti i modi apologetici sono discutibili, se non sono arte, se sono arte sono al di là del giudizio, diciamo, no? I Sopranos dunque, più che la mafia uccide solo d'estate, la fiction dopo il film di Piff, ossia Pierfrancesco Di Liberto, che ha portato al grande pubblico anche in Italia, come abbiamo raccontato nella prima parte di Storiacce, un modo di sbeffeggiare e raccontare attraverso la lente dell'ironia anche i più feroci padrini e i loro misfatti in una delle pagine più buie della nostra storia. Tommaso Buscetta... Cioè, tu sei stata con un boss? Ti prego, Lorenzo, ti prego, non mi fare quella faccia da catastrofe che da una minchiata ne fa una montagna. Tommaso Buscetta, ossia l'uomo che svelò a Giovanni Falcone e poi al mondo intero i segreti e la struttura di Cosa Nostra in una deposizione durata un'intera settimana durante il maxi processo nell'aula bunker di Palermo. La commissione da chi è composta? La commissione è composta da tutti i capi mandamenti. Da tutti i capi mandamenti? Che viene eletto da tre famiglie. Quali sono i poteri di questa commissione? Che cosa delibera? I poteri della commissione sono il controllo della Cosa Nostra stessa. Vi sono altre cariche insieme alla famiglia? Sì, rappresentante, sottocapo, consiglieri, capi di cina. Stavamo parlando della commissione. Lei mi diceva che la commissione, e l'ha detto poi in istruttoria, praticamente non ha fatto altro che confermare quello che ha detto in istruttoria, che la commissione è un organo che sovrintende e controlla e dispone. E dispone. E dispone. E tra l'altro questo controllo comporta anche un controllo sugli omicidi. Senz'altro. Non si può commettere un omicidio senza che la commissione non lo sappia. Il rappresentante della famiglia, se lui non è capo mandamento, si rivolge al capo mandamento e il capo mandamento lo riferirà in commissione. Nessun capo mandamento, nessun rappresentante si arbitrerà di ammazzare una persona senza essersi rivolto al suo capo mandamento, che lo farà presente in commissione. Nel caso, nell'ipotesi che si verifichi l'uccisione di un capo famiglia, quali sono le reazioni, se ci sono reazioni, oppure se queste reazioni non ci sono, quali sono le spiegazioni? Se si uccide un capo famiglia senza il consenso della famiglia stessa, le reazioni sono guerre di mafia. Se si uccide un capo famiglia con l'accordo della famiglia stessa, non succede niente, non c'è nessuna reazione. Quindi se c'è una sostituzione di questo capofamiglia ucciso con membri della stessa famiglia... È perché è pacifico che c'era l'accordo della famiglia stessa. Ah, ecco. Degli esempi me ne può fare? Stefano Bontate. Quella che racconta Buscetta è la mafia di una Palermo che in quegli anni era come Beirut, per dirla con uno dei più celebri titoli del quotidiano L'Ora, tanti erano i morti e le bombe. Ebbene, anni dopo può succedere pure che un capomafia importante come Don Masino venga descritto mentre incassa il rifiuto dalla ragazza di cui si era invaghito e di cui continuerà poi a pretendere in carcere la parmigiana di melanzane. Sono passati ormai quasi 40 anni da quella stagione ed è forse anche il tempo che ha permesso di poter raccontare, anche con questa nota di leggerezza, i mille morti di quella Palermo. Ma il tempo è stato necessario, riflette ora Piff, con un pizzico stavolta di rammarico, anche perché quella mafia ha potuto contare pure su ampi sostegni politici e questo, ad esempio, in altre stagioni difficilmente sarebbe passato sulla TV. E la Miraglia, la Rai 1, la televisione, l'emittente per eccellenza della famiglia italiana, vomita addosso a queste persone, tutto ciò, se facendo nomi e cognomi, secondo me è proprio un trionfo, e il fatto che si possa fare senza rischiare la vita è, almeno finora, però insomma credo che non credo di avere problemi a camminare per Palermo. Secondo me è proprio un successo vero e proprio. E fino a 10-15 anni fa forse sarebbe stato molto più difficile. Sono dunque serviti 20-30 anni di distanza da quei fatti, non solo per poterli raccontare, anche se in questi anni certo sono stati raccontati, ma sono stati raccontati in modo completamente diverso, soprattutto in televisione. Dunque, per poterli raccontare così, anche con una nota ironica, è servito un distacco sufficientemente ampio per poter sorridere anche di alcuni drammi profondi della nostra storia? Sicuramente il tempo sì ha aiutato, ma ha aiutato anche, so che è un po', è una vittoria, però è grave che sia passato così tanto tempo, nel senso che ora alla fine è facile, tra virgolette, nel senso che ormai appunto o sono morti o sono in carcere e non c'è più quella politica che in qualche modo era collusa, più o meno collusa o più o meno collusa anche culturalmente, cioè quindi non ti dico che è una vittoria di Pirro, ma sarebbe stato sicuramente più pericoloso, ma sarebbe stato più bello farlo quando Dottorina era ancora nel suo villone a Palermo. Ma tutto questo, quest'ironia, da Peppino Impastato ai Sopranos fino al film e alla serie La mafia uccide solo d'estate, prova come della mafia si può ridere e che forse lo sberleffo dell'ironia finisca per colpire i boss e il loro consenso molto più di altre azioni. E in fondo da sempre, fin dall'epoca classica, dei malvagi e dei potenti si è riso e da sempre questo ha dato loro particolarmente fastidio. E allora linea, come sempre a questo punto, a Giorgio Iranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica e voce delle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Si può ridere della mafia? Si può scherzare su cose serie e tragiche? I greci senz'altro avrebbero risposto di sì. Loro scherzavano su tutto, sugli dèi, sui potenti, sulla morte, sulla guerra. Nel teatro di Atene le commedie prendevano di petto i grandi temi e le grandi tragedie della vita collettiva. Tutti gli uomini di spicco erano ridotti sulla scena comica alla misura di ciarlatani. Tutti i politici erano ladri di polli, cialtroni e corrotti. Il sommo Pericle nella realtà era autorevole e quasi onnipotente, ma i poeti comici lo prendevano in giro perché, dicevano, aveva la testa a pera e bastava questa trovata infantile per dire che il re era nudo. Aristofane, nella sua commedia Le nuvole, trasforma anche Socrate, il più grande pensatore del suo tempo, in un ciarlatano che misura i piedi delle pulci. Ridere era la rivincita dell'uomo comune su quello che nella vita incuteva paura e soggezione. Nella fantasia comica si poteva sovvertire il mondo e sfuggire alla tirannia della realtà. La guerra con Sparta seminava morte e distruzione, ma gli ateniesi ridevano pure di quello. Aristofane si immagina un contadino ateniese che, stufo di stragi e devastazioni, firma una pace privata con Sparta. Cosa impossibile, ovviamente, come se un piccolo ebreo del ghetto di Varsavia si fosse messo d'accordo direttamente con Hitler per salvarsi dalla Seconda Guerra Mondiale e dall'Olocausto. Ma almeno, ridendo della guerra e dei guerrafondai, si poteva sognare un mondo diverso, come ridendo della mafia e dei mafiosi si può immaginare un'Italia senza mafie. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce. Su Twitter invece ci seguite all'account Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.